Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, il nuovo romanzo di Melania Mazzucco, Sei come sei, racconta la storia di una ragazzina cresciuta da una coppia gay. Uno su mille, quando il self-publishing ha successo. L'anticipazione del domenicale del Sole 24 Ore, domani in edicola. Oggi siamo in compagnia di Melania Mazzucco, ora in libreria con Sei come sei, pubblicato da Einaudi nella collezione Stile Libero Big. Un libro che mi è piaciuto veramente molto, un libro che parla di un tema apparentemente spinoso, cioè quello di crescere con due genitori omosessuali, quindi crescere con due padri nel caso specifico di questo romanzo, ma veramente tutto è trattato con molta normalità, con molta semplicità, con delicatezza. Cioè quello che emerge da questo romanzo è veramente il rapporto di amore e di affetto che lega la protagonista Eva, questa prima bambina, poi ragazzina, a questi suoi padri. Allora Melania, partiamo proprio dall'incipit di questo romanzo, che è piuttosto forte, a parte la piccola prefazione sull'anno zero, che poi magari spiegheremo dopo. Sì, però okay. Tutto si svolge, siamo nella metropolitana di Milano, c'è questa ragazzina Eva che sta litigando con dei compagni di scuola perché insomma la prendono in giro, e a quel punto succede un incidente. Sì, ho scelto di cominciare il romanzo in medias res, no? Come si diceva una volta, con una reazione di Eva molto violenta. Eva attraversa quell'età difficile che sta fra l'infanzia e l'adolescenza. Ha 11 anni, non è più una bambina, quindi è uscita dal mondo protetto della famiglia, della scuola, però non è ancora un adolescente che sappia chi è, che abbia cominciato a trovare il suo gruppo, la sua banda, no? A 11 anni è una ragazzina un po' strana, molto sola, cambiato città. Sì, si capisce che insomma è abbastanza ai margini rispetto agli altri compagni di classe. Sì, perché è appena arrivata in questa scuola, inoltre ha commesso l'errore di confidarsi forse con il ragazzino sbagliato, e insomma, a un certo punto è diventata il bersaglio degli scherzi degli altri. Lo è diventata perché è diversa, nel suo caso perché la sua storia è diversa, perché è figlia di due padri, ma non è solo questo, perché a quell'età si può essere diversi per tante ragioni, per qualsiasi cosa. E in quel momento, mentre litiga con questo compagno, come dire, le scatta quasi un moto di violenza che probabilmente neanche lei conosceva in se stessa. Sì, perché ho pensato che i ragazzini soprattutto non pensano alle conseguenze, no? La differenza teorica forse fra noi adulti e un ragazzino è proprio questo, che tu non hai consapevolezza di ciò che le tue parole possono provocare, di ciò che un tuo gesto può provocare. Quindi credo che all'inizio del romanzo c'è uno scherzo che va al di là delle intenzioni di tutti, da una parte dei ragazzini che la provocano e la prendono in giro con una canzoncina molto violenta, volgare, dall'altra però c'è Eva che butta il suo compagno sotto la metro. Da lì nasce la fuga, che in realtà è come se fosse l'occasione per Eva, essendosi messa fuori da tutto, no? Deve scappare, ha paura, come il terrore di aver commesso qualcosa di tremendo, addirittura che il ragazzino possa essere morto. In quel momento, liberata, diciamo, dalla gabbia, dalla famiglia, della scuola, della società, decide finalmente di fare ciò che ha sempre desiderato fare, cioè ritrovare suo padre, il suo secondo padre. E da qui inizia appunto la storia, iniziamo a capire qual è stato il passato di Eva. E allora lei va in questo paesino per ritrovare Jose, che era appunto uno dei suoi due padri, non il padre biologico. Il padre biologico era un altro, Christian, e purtroppo, diciamo, la vita gliel'ha portato via, nel senso che Christian muore in un incidente. Noi seguiamo quasi all'inizio del romanzo queste vicende, e quindi Eva inevitabilmente finisce per non poter vivere con l'altro suo padre, perché per la legge italiana, insomma, il compagno uomo di un altro uomo non può, insomma, prendersi cura di sua figlia, insomma. Come vivono questo distacco sia Eva che Jose? Beh, lo vivono malissimo tutti e due, perché innanzitutto c'è un lutto, cioè un progetto di vita, di coppia e poi di famiglia, che si è spezzato all'improvviso. È un po' l'incubo di tutti quelli che sono ancora giovani, no? Che improvvisamente la vita finisca senza ragione, senza malattia, senza spiegazione, una moto che esce fuori strada, una macchina che ti viene incontro, no? E lì tutto quello che i due hanno costruito insieme, prima insieme loro due, poi da quando hanno avuto la bambina, la loro famiglia va in pezzi. Quindi già va in pezzi perché c'è una morte, e poi va doppiamente in pezzi perché appunto la famiglia non è riconosciuta come tale. Jose non è riconosciuto come padre, neppure padre adottivo, insomma, della figlia del suo compagno, e tra l'altro è anche un musicista che non lavora e che ha fatto una scelta insolita, oppure solita però se fosse stata una donna, cioè alla fine di rendersi conto che c'è una fase della vita in cui ciò che gli interessa di più è crescere la sua bambina piuttosto che tornare a lavorare, quindi si è occupato di lei, dunque non ha neanche un reddito, non è inquadrato nella società, insomma non viene visto come un padre e neppure come un tutore possibile, quindi viene separato dalla figlia. Quanto Eva si rende conto dell'originalità della sua famiglia? Ma io credo che Eva se ne renda conto, perché ovviamente nel romanzo viene dato che Eva ha 11 anni e diciamo che il romanzo si svolge oggi, quindi Eva è una specie di pioniera. Oggi ci sono molti bambini come Eva, molte bambine, molti bambini come Eva, ma Eva ha già 11 anni nella storia, no? Quindi sicuramente quando Eva va a scuola è la prima ad avere due genitori dello stesso sesso, e però intorno a sé trova, io infatti ho scelto di non raccontare particolarmente l'infanzia di Eva perché è un'infanzia normale, nel senso che è una bambina amata, voluta, fortemente voluta, e alla fine accettata anche dalle famiglie dei suoi genitori, perché all'inizio con molta perplessità, con qualche imbarazzo, no? Certo, le famiglie dei due uomini erano in difficoltà. Anche perché finché c'è una coppia, alla fine nessuno si fa tante domande, ognuno sta con chi gli pare, no? Certo. Però se c'è un figlio tutti lo sanno, e quindi si sa anche come l'hai fatto, e dunque devi affrontare il giudizio della società. Però Eva cresce comunque in un ambiente che l'accetta, e quindi non è arrivata ancora alla fase di chiedersi neppure che forse chi è sua madre, dove è sua madre. Sa di essere figlia di due padri, sa di essere nata da una donna che ha prestato il suo ventre e da qualcun'altra che le ha dato il codice genetico e la sua identità genetica. Però fino a che Eva ha 8 anni, cioè quando muore il suo primo padre, tutto questo per lei non conta molto. Non lei conta, ha due persone che la amano e che la crescono. E non è dopo si pone che domande, comincia. Infatti. È dopo che comincia a farsi delle domande. Soprattutto dopo vuole tornare dal padre. In questo romanzo io ho raccontato questo. Sì, sì, il ritorno, cioè voler giustamente ritornare da quello che per lei è suo padre. Perché lei di fatto è stata poi strappata all'uomo che era suo padre. Che l'ha cresciuta e che tra l'altro è quello che gli ha dato l'affetto. Come dire, anche il calore fisico, no? C'è una scena in cui Eva si rende conto che nessuno la può più baciare o abbracciare, no? Perché chi può farlo questo con un bambino? Solo i suoi genitori, no? Gli altri hanno un rapporto diverso, può essere anche affettuoso, ma chiaramente non è carnale, no? Non è carnale. Quindi da quando Eva ha perso anche il secondo padre non c'è nessuno che la possa toccare, che la possa stringere fra le braccia con affetto, e c'è questo enorme sentimento di vuoto in lei. Ed è quello che sta cercando in questa fase della sua vita. Poi un giorno forse cercherà anche le sue madri, ma adesso in questa storia si racconta la ricerca del padre. Melania, non è la prima volta che nei tuoi romanzi affronti appunto il rapporto genitori-figli. Ricordiamo alcuni dei tuoi romanzi, vabbè, quello forse più famoso, Vita, del 2003, che aveva vinto lo Strega, ma anche Un giorno perfetto, che poi era diventato anche un film. Il tuo primo romanzo, Il bacio della Medusa. Perché però ora hai voluto affrontare questo tema, insomma, della paternità o dell'essere figlio, guardando a una coppia omosessuale, e c'è anche, come dire, una sorta di denuncia sociale in questo, o era secondo te un soggetto semplicemente interessante per un romanzo? Beh, io ho declinato le storie di come si può essere padri e figlie, o genitori e figli, più o meno in tutti i libri che ho scritto, perché credo che sia uno dei temi che mi interessa di più, anche perché tutti noi siamo stati figli, poi non tutti sono genitori, ma comunque l'aver attraversato l'infanzia essendo figlio e affacciarsi al mondo, relazionarsi con la propria famiglia è qualcosa che mi sembra universale, no? E l'ho declinato nel tempo presente, raccontando addirittura la storia di un padre che, per vendicarsi della sua ex moglie, in Un giorno perfetto giunge a compiere il gesto più estremo, spaventoso, no? Più spaventoso che si possa fare, cioè uccidere il proprio sangue. Quindi è la negazione del futuro, è la negazione della vita in assoluto. Naturalmente il tema mi interessa a mia volta come persona, perché Vita, per esempio, era la storia del padre di mio padre ed era il mio modo di dialogare a mia volta con mio padre, che è scomparso tanti anni fa, e dunque era un libro in qualche modo anch'esso sulla sull'essere figli. Io l'ho fatto però da scrittrice, cioè raccontando quella storia. Raccontando appunto i genitori che erano andati in America. Sì, quindi ritornando, riappropriandomi della storia della mia famiglia, di cui come tutte gli adolescenti avevo cercato di liberarmi per vivere la mia di vita, no? E quindi vita era invece il ritorno a casa. E invece ora questo sai come sei? Perché questo mi sembrava un'altra angolazione ancora. Qui c'è la storia di una paternità che non è una paternità di sangue, è una paternità elettiva, no? Nata soltanto dal sentimento e dall'amore, e questa era sicuramente la cosa che mi interessava di più. E poi naturalmente anche perché Eva è un personaggio della vita contemporanea, ma non ancora della letteratura contemporanea, nel senso che ci sono moltissime Eve nella nostra società, ma di loro non si parla, si parla solo in maniera astratta dei principi che permettono l'esistenza di Eva, no? E cioè si fanno molti discorsi sull'omogenitorialità, ma in astratto. Invece questa è la storia di una persona e di suo padre. E quindi volevo raccontare questa storia proprio per far vivere l'esperienza dell'incontro con Eva, perché io credo che poi nella vita, per mia attitudine, conoscere le cose vuol dire non giudicarle, ma comprenderle, no? E credo che questa storia fosse un modo di far pensare anche, sì, però di capire con una, io l'ho, sì, detto, capire, con molta semplicità, nel senso veramente buono del termine, nel senso che c'è un accesso immediato ai personaggi di questo romanzo, non c'è nessuna stranezza, ecco. Sarebbe così se, io credo, se non so, qualcuno di noi avesse conosciuto Eva, no? Se fosse la compagna di classe del proprio figlio che va a scuola, se fosse la figlia di amici, se fosse la ragazzina che abita sul nostro pianerottolo, no? Noi, conoscendola, non ci faremmo troppe domande sul perché, per come è nata, no? Potremmo volerle bene o detestarla perché ci sta antipatica, ma lei esisterebbe come persona, non come principio astratto, no? E credo che la letteratura possa fare un'esperienza di questo tipo. Grazie a Melania Mazzucco, ora in libreria con Sei come sei, pubblicato da Einaudi. Parliamo ora di self-publishing. Come ripeto spesso anche dalle frequenze di Radio 24, io non amo molto il self-publishing, cioè insomma l'autopubblicazione del romanzo, che ormai avviene sempre più spesso attraverso l'ebook. Perché non la amo? Perché secondo me solo un romanzo su 100, addirittura su 1000, ha veramente un certo valore, insomma, solo uno scrittore fra tanti ha del talento. E poi comunque ci vuole sempre un lavoro di editing, cioè di correzione da parte dell'editor, quindi di una casa editrice, che rendono una storia magari interessante, la fanno diventare un vero e proprio romanzo. Detto questo, non si può ignorare sicuramente il fenomeno. E a proposito di quel uno su mille ce la fa che citavamo prima, sono veramente pochi i casi italiani di self-publishing arrivati poi alla pubblicazione di un libro cartaceo di successo. Ora mi ricordo per esempio il caso di Anna Premoli, che aveva pubblicato appunto autonomamente il suo libro Ti prego lasciati odiare, poi l'aveva acquisito Newton & Compton e poi alla fine addirittura ha vinto il premio Bancarella. Ma oggi vi parlo di un altro caso di self-publishing di successo, uno dei pochi, diciamo una delle poche mosche bianche che ci sono in giro a proposito di autopubblicazione. Lei si chiama Elisa S. Amore, è una scrittrice siciliana e tutto è iniziato nel novembre del 2012 addirittura, perché in quell'anno era uscita una versione ebook autopubblicata del suo libro La carezza del destino. In poche settimane il romanzo era entrato nelle classifiche dei principali rivenditori online. Il romanzo, come il suo secondo romanzo Unfaithful del gennaio del 2013, è stato poi acquisito dalla casa editrice Nord, che l'ha pubblicato anche in versione cartacea. Naturalmente si tratta di versioni riviste e corrette, versioni editate. Questi due romanzi fanno parte di una pentalogia fantasy che ovviamente l'autrice ha intenzione di proseguire. Allora, ho incontrato Elisa Amore e innanzitutto gli ho chiesto come è nata questa idea di pubblicare attraverso il self-publishing. In realtà è stata una scelta che è venuta dopo tempo. Avevo scritto il romanzo più di 3 anni prima dell'autopubblicazione. Inizialmente ho seguito l'iter tradizionale, ho fatto l'invio alle case editrici e dopo attese incredibilmente lunghe a un certo punto ho capito che probabilmente le risposte non sarebbero arrivate e così avevo sentito di questa possibilità che era il self-publishing, che in Italia è arrivata comunque solo dopo rispetto ad altri paesi. E niente, ho iniziato a documentarmi e a valutare la possibilità di pubblicare per conto mio e ho preparato tutto il materiale perché ci tenevo a fare il lancio in modo particolare, non pubblicare l'ebook e basta, ma ho cercato di suscitare nel lettore, nel potenziale lettore la curiosità. Sì, esatto. Quindi insomma hai creato anche un po' di, come dire, marketing virale, esatto, come si dice, esatto, pubblicità virale sul tuo ebook. Allora, questo accade nel novembre 2012 che tu metti online questo romanzo. Esatto. Che tipo di risultati hai? Allora, io ho autopubblicato il romanzo e i blog hanno subito divulgato una notizia e i potenziali lettori sono rimasti affascinati dalla storia e con mia sorpresa in poche ore il file ha fatto il giro del web piazzandosi al primo posto tra i bestseller fantasy di Amazon dove è rimasto poi per mesi. E già dopo 2 settimane dall'autopubblicazione ho ricevuto i primi contatti dalle case editrici, tra cui una spagnola che ne ha comprati i diritti e che lo porterà presto in Spagna e niente, dopo... Quindi l'hai venduto prima in Spagna e poi in Italia? Sì, come pubblicazione tradizionale sì. Qualche mese dopo, nel gennaio 2013, tu autopubblichi sempre sul web un altro romanzo e anche in questo caso è un grande successo. Ci puoi dire un po' di numeri, insomma, quanti download ci sono stati per questi 2 romanzi? Complessivamente tra il primo e il secondo ci sono stati sui 45.000 download. A quanto veniva venduto il tuo ebook? Il primo a 2,99, anche se nel corso dei mesi ho fatto delle promozioni, mentre il secondo 1,99. Adesso questi 2 romanzi che fanno parte di una pentalogia fantasy, insomma saranno 5 libri complessivamente, sono stati acquisiti da Editrice Nord, che ha deciso quindi di pubblicarli anche in versione cartacea e naturalmente in versione editata. Quanto è rimasto del romanzo originale dopo il lavoro di editing? Insomma, quanto è cambiato dal self-publishing al romanzo compiuto? Ma in realtà il self-publishing mi ha dato la possibilità di conoscere in anteprima quali erano i punti forza del romanzo e cosa invece andava sistemato. Ho raccolto un po' i pareri anche dei lettori, che sono comunque i giudici più importanti, e quindi con l'editrice Nord ho avuto la possibilità di ricominciare in un certo senso al meglio. Poi inoltre ho colto questa possibilità per aggiungere delle parti inedite, sempre per arricchire il testo e renderlo più completo. E allora parliamo un po' in concreto di questa pentalogia, ci puoi dire un po' chi sono i protagonisti principali di questi tuoi romanzi fantasy? Sì, i temi principali sono l'amore, ma anche la vita e la morte e il sottile legame che le unisce. La protagonista è Gemma, la cui vita è giunta al termine. Quando arriva nella sua cittadina l'angelo della morte che deve portarle via la vita, accade qualcosa che nessun altro era mai stato in grado di fare, perché lei lo vede, lo guarda dritto negli occhi, e questo cambia un po' tutto. Da allora, da lì sarà tutto una corsa contro il tempo, contro i sentimenti e soprattutto contro il destino. Che cosa consiglieresti a qualcuno che magari in questo momento è in ascolto e vorrebbe tentare la carta del self-publishing perché magari non è riuscita ad approdare ad una casa editrice? Allora, io consiglio sempre di non bruciare mai le tappe, perché c'è un tempo giusto per ogni cosa, e quindi di seguire l'iter tradizionale alle case editrici e se poi dovesse andare male rivolgersi al self-publishing, che per fortuna oggi è un'opportunità per gli autori. Però se io avessi autopubblicato quando avevo scritto la prima bozza, sicuramente non avrei ottenuto gli stessi risultati, perché in questo periodo il mio romanzo è maturato molto e ogni persona con cui ho interagito mi ha aiutato a crescere come autrice e ad aggiungere o togliere qualcosa, quindi l'attesa mi ha giovato. Diciamo che in generale la pazienza è una dote che, se non si ha, va maturata in questo campo. Insomma, il lavoro poi della casa editrice, degli editor, è servito. Assolutamente sì. Sì, ho avuto la possibilità di lavorare al fianco di protagonisti, di professionisti, scusate. Come dicevo prima, abbiamo aggiunto delle parti inedite, abbiamo migliorato molto il testo. Armando Massarenti, responsabile del domenicale del Sole 24 Ore, l'inserto culturale Domani in Edicola, che cosa ci propone il numero di domani? Ci propone la nuova edizione, finalmente un'edizione molto ben curata filologicamente di un classico della letteratura, è quello di Giovan Battista Basile, L'Occunto degli Cunti. Ecco, questo e ce lo descrive in maniera assolutamente sublime, devo dire, Salvatore Silvano Nigro, che è una delle nostre firme di punta, è un grande italianista, e sottolinea soprattutto questo genere che va distinto dalla novella in senso proprio. Insomma, Nigro ci fa vedere come questo modo di raccontare che nasce più o meno nel 400, insomma, che trova nel 400 la sua massima espressione, è diverso dal modo di raccontare novelle di tipo boccacciano, perché se il Decameron aveva inteso raccontare 100 novelle o favole o parabole di storie, L'Occunto degli Cunti si incaricò di presentare, strutturare in 5 giornate 50 false nuove, avvisi inventati e gazzette in aria. Quindi, insomma, un modo molto molto giocoso di raccontare storie, insomma anche molto natalizio, se vogliamo. Grazie ad Armando Massarenti, responsabile del Domenicale del Sole 24 Ore, l'inserto culturale Domani in Edicola. Questa puntata si chiude qui, ma il cacciatore di libri non vi lascia soli neanche a Natale, neanche in questo periodo delle feste. Prima del prossimo appuntamento di sabato 28 dicembre abbiamo un appuntamento speciale il 26 dicembre, poi in replica domenica 29 alle 17 con i libri dell'anno, i libri che hanno caratterizzato un po' questo 2013. Dico spesso che le librerie che abbiamo a casa sono un po' la storia della nostra vita. Un libro ci ricorda un'estate, una vacanza, una persona, chi ce l'ha regalato, il momento in cui l'abbiamo letto. E allora il 26 dicembre e il 29 dicembre alle 17 appunto ci ricorderemo di questo 2013 attraverso i libri che l'hanno caratterizzato. Come sempre trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Grazie in regia Pietro Lacorte, una buona lettura da Alessandra Tedesco.